Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Una buona serata, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo Lontano, puntata speciale interamente dedicata alla situazione in Tunisia. La squadra che ha confezionato con me questa puntata speciale: Miriam Lucchetti, Luca Cremonese, Nadia Zammiti in redazione, Giorgio De Luca in assistenza, Filippo Aureggi alla parte tecnica. Vi ricordo che anche questa sera potete interagire con me e con il mio ospite con domande, suggerimenti o commenti. La mail nessunluogo@radio24.it, gli sms al 349-238-6666 e poi siamo su Facebook nessunluogolontano-radio24 e su Twitter nessunluogo24. Allora, la Tunisia ha meritato la nostra attenzione, ci siamo andati in settimana e adesso io vi porto a Tunisi. La democrazia è in danger en Tunisie? Eh bien, la question se pose. Les salafistes attaquent aujourd'hui les bars qui... French embassies around the world have been hit by protests following the publication of caricatures of the Prophet Muhammad in a French satirical magazine. In Tunisia, the French embassy has announced the closure of all French schools until Monday as violence is feared. Questa è la situazione aggiornata ad oggi. Ieri una nuova manifestazione davanti all'ambasciata francese, altissime misure di sicurezza, scuole francesi chiuse fino a lunedì a Tunisi dopo la pubblicazione, lo sapete, delle vignette satiriche su Maometto da parte del settimanale francese Charlie Hebdo. Il tutto a una settimana dall'attacco dell'ambasciata americana che ha fatto 4 morti, decine di feriti dopo quello sciagurato film satirico su Maometto. Peraltro il rap che ci accompagna è quello di El General, che è un rapper 22enne tunisino che è assurto agli onori della cronaca non solo musicale con la rivoluzione. Altri brani che posteremo quest'oggi anche su Facebook e che vi faremo sentire in trasmissione vengono da un altro gruppo che si chiama Psycho M, che invece è un gruppo che appoggia i gruppi islamisti. Che cosa sta accadendo in Tunisia, il paese in cui è scoccata la scintilla della primavera araba? Quanto i partiti islamisti, fra cui Ennahda al potere, saranno in grado di gestire una transizione che dura ormai da un anno? Il 23 ottobre è una data cruciale perché scade un mandato transitorio. Che ruolo giocheranno i gruppi più estremisti come Ansar al-Sharia, che si presume essere responsabile dell'attacco all'ambasciata americana? Tutto questo è al centro della puntata di Nessun Luogo Lontano di quest'oggi, ma facciamo un passo indietro, ricapitoliamo la storia dell'ultimo anno e mezzo del paese nordafricano. La Tunisia è stata la prima nazione ad aver vissuto le rivolte popolari che hanno segnato la primavera araba. Povertà, disoccupazione, corruzione e crescita dei prezzi dei generi alimentari sono state alla base delle proteste popolari iniziate il 17 dicembre 2010. Ad accendere la miccia è il gesto di un ambulante, Mohamed Bouazizi, che si dà fuoco per denunciare i maltrattamenti e il sequestro della merce subiti da parte della polizia. L'episodio scatena un movimento di protesta che si diffonde immediatamente in tutto il paese, a partire dalle strade di Tunisi, dove i giovani laureati disoccupati manifestano per le strade della capitale, subendo il pesante contrasto da parte della polizia. Le rivolte non si fermano e il 13 gennaio del 2011 il presidente tunisino Ben Ali, da 24 anni al potere, è costretto a fuggire dal paese. La carica di presidente ad interim resta al primo ministro Mohamed Ghannouchi, rimasto a capo di un governo di unità nazionale provvisorio. Alla fine del febbraio 2011 decine di migliaia di manifestanti si radunano nel centro di Tunisi per chiedere le dimissioni del governo provvisorio ed una definitiva rottura politica con il passato. Ghannouchi è costretto a dimettersi e il partito dell'ex presidente Ben Ali cessa ogni sua attività per ordine della magistratura di Stato. Le elezioni per l'Assemblea Nazionale Costituente sono indette nell'ottobre 2011. La Tunisia è anche la prima nazione ad affrontare le elezioni politiche democratiche dopo la svolta della primavera. Il vincitore è il partito islamico Ennahda, ma non ottiene la maggioranza legale necessaria. A novembre del 2011, l'Assemblea Costituente si riunisce per la prima volta per redigere una nuova Costituzione. Moncef Marzouki, attivista in difesa dei diritti umani, è eletto presidente dell'Assemblea Costituente, mentre il leader del partito Ennahda, Hamadi Jebali, viene nominato primo ministro. L'8 agosto 2012 è stata presentata ufficialmente una bozza della nuova Costituzione tunisina, che ha provocato una nuova ondata di proteste popolari. Il motivo dello scontento sono i riferimenti alla Sharia, la legge islamica, inseriti nel testo della Costituzione e fortemente voluti da gruppi politici islamisti in assemblea. La parte più contestata della nuova Costituzione è il riferimento alla figura della donna come complementare all'uomo, definizione questa che introdurrebbe delle restrizioni alla libertà di cui hanno goduto fino ad oggi le donne in Tunisia, con la precedente Costituzione del 1956. Questa è l'ultimo anno e mezzo di storia del paese più a nord dell'Africa, la Tunisia. I disordini all'ambasciata statunitense, lo dicevo prima, si accusa Ansar al-Sharia, questo gruppo salafita estremista, ma più in generale gruppi di salafiti da mesi si muovono nel paese e agitano i sonni dei leader politici, non solo tunisini, anche degli artisti, ma lo vedremo nella seconda parte della trasmissione. Il partito al potere, Ennahda, getta acqua sul fuoco, fa capire, non so con quali esiti, che è in grado di controllare i salafiti più estremisti. Che aria tira a Tunisi in questi giorni? Ebbene, due giorni fa eravamo lì, siamo stati alla moschea di Al-Fatah, il giorno dopo il sermone dello sceicco a capo di Ansar al-Sharia, Abu Yad, e abbiamo incontrato un giovane salafita, Hakim. Sentite che cosa ci ha detto. La gente che ha provocato questi eventi nella moschea dice di essere salafita, ma non lo è. Non sono veri salafiti. Sono persone aggressive verso gli altri e pretendono che chi non fa parte di loro non sia un musulmano. E sono un pericolo per tutti. Hanno dato una cattiva immagine dei veri musulmani, in particolare di quelli che portano la barba. Certo, i sentimenti della gente sono cambiati verso di noi. Hanno dato una cattiva immagine e ora la gente pensa che noi siamo aggressivi, che siamo contro di loro. Cominciano ad avere paura di noi, ma come potete vedere, siamo persone molto gentili, che parlano con gli altri, senza aggressività. Siamo commercianti con dei clienti e non abbiamo problemi con nessuno. Vendiamo profumi e spezie in polvere, come ginseng o prodotti per i muscoli per farti diventare forte. Il business dopo gli ultimi eventi non va tanto bene. Ciò che è successo va a influenzare il business. E lo stesso Hakim, questo giovane salafita di circa 25 anni, come dire, apre uno squarcio sul quale discuteremo con l'ospite che introduco fra poco. E insomma, lui parla di un complotto, dice che c'è qualcuno dietro a questi attacchi. Ascoltiamo ancora Hakim. Certo, qui c'è un complotto in atto nel paese. C'è qualcuno dietro, partiti politici, non so chi, che vuole dare una cattiva immagine dei veri salafiti e della vera religione musulmana. I media stranieri ed europei non fanno altro che prendere solo quella parte di musulmani che sono aggressivi e propagandano queste cose come se fosse l'immagine di tutti i musulmani. Aiutano a dare una cattiva immagine all'Islam. Qui c'è Adrien, che era un cittadino francese. Lui si è convertito all'Islam e ora è qui con me. Lavora qui e si chiama Said. È questa la vera immagine dell'Islam, non quella che i media europei vogliono portare. Il vero Islam è credere in Dio, vivere in pace e fare in modo che tutto il mondo creda in Dio, ma in modo pacifico. La religione dell'Islam è un appello a credere in Dio e evitare di credere nelle altre religioni. L'Islam è venuto per curarci dalle cose che ci fanno male, come la droga, e le cose che ci attirano erano nella vita, ma poi avremo la ricompensa di Dio. E la domanda da farsi in questi casi, quando ci sono violenze di piazza, quando si muove la politica, quando si parla alla pancia della gente, è sempre cui prodest, a chi giova tutto ciò? Ascoltiamo ancora Kim. C'è un complotto in questo paese, ma non so chi ci guadagni. Non posso rispondere a questa domanda, ma è come ha detto il mio amico. Sono partiti politici. Che cosa fanno? Loro provocano queste bestie, d'accordo? Gente che non ha ricevuto cultura ed educazione, né islamista né moderna, per motivarli a spingerli all'odio. Hai capito bene cosa accade, no? Ma i veri salafiti siamo noi. I giovani che hanno fatto questo non sono veri salafiti. Non conoscono niente della religione islamica. All'epoca di Ben Ali non facevano neanche le preghiere. Andavano allo stadio, fumavano cannabis. Questi gli umori di un gruppo di salafiti davanti alla moschea di Al-Fatah. Siamo in centro a Tunisi. Il giorno prima mi sono recato di fronte all'ambasciata americana, che ancora porta i segni di quell'attacco. E c'erano alcune donne, alcuni uomini che erano in attesa per prendere un visto per gli Stati Uniti. Più in generale, la maggioranza dei tunisini prende le distanze da ciò che è accaduto appunto davanti all'ambasciata americana. Ascoltiamo. Madame, on n'est pas habitué à ça en Tunisie. Non siamo abituati a fare questo in Tunisia. È una vergogna per noi. Siamo veramente molto tristi. Si è sempre dato il benvenuto a tutti i diplomatici e cittadini stranieri. Anche la nostra religione non accetta questo. Si rispettano tutti i profeti, non si fanno paragoni tra l'uno e l'altro. Sono rispettati tutti, ed è questa la religione musulmana. Si rispettano sempre tutti gli ospiti. Siamo scioccati. Sinceramente siamo scioccati. E io spero che gli americani ci perdonino. Gli americani ci perdonano e... c'è tutto. Non posso dire altra cosa. Tra l'altro, registrare questa intervista non è stato facilissimo, perché all'inizio credevano queste donne che io avessi una telecamera nascosta. Ascoltiamo insieme questa piccola parte dell'inizio dell'intervista. Pas de télévision, pas de caméra cachée. No, la radio, c'est la radio. S'il vous plaît. La camera, sì, sì. Pas de caméra cachée. C'est bien fermé. S'il vous plaît. Et ça, c'est seulement, tout simplement pour la radio. Ouais. C'est radio 24. C'est grave, c'est una... E come sentite, la donna dice: non voglio mostrarmi in video, non voglio essere riconosciuta. E c'è un mio collaboratore tunisino con me e dice: è grave se c'è questa paura. In effetti la paura di essere attaccati, di essere aggrediti da frange più estreme c'è ed è una realtà. Ma la donna stessa ribadisce: questi gruppi non rappresentano i tunisini. Quei gruppi non rappresentano i tunisini. I tunisini amano la gente, vivono bene. Siamo gente normale, voi lo potete vedere. Non portiamo il velo, siamo musulmani ma non aggressivi. Quel gruppo di persone che ha agito in quel modo non rappresenta la Tunisia. Sì, sono tunisini, ma noi siamo contro l'aggressività. Grazie agli uomini e alle donne della Tunisia, la Tunisia è ancora un nuovo inizio. Loro non possono sottometterci o imporsi. Loro sono pochi. Penso che ci abbiate visti. Noi non siamo così e noi siamo contro tutto questo. Loro non possono imporci o farci inchinare di fronte a queste cose. I tunisini sono qui. Jamais. I tunisini sono là. Questa è la voce di una donna che ho incontrato di fronte all'ambasciata statunitense a Tunisi 3 giorni fa. Do il mio buonasera a Stefano Allievi, professore di sociologia all'Università di Padova, esperto di Islam. Professore Allievi, buonasera. Buonasera a voi. Allora, la prima domanda che le porrei è questa. Tunisia anno zero, sta cambiando qualcosa? Siamo davvero a una svolta cruciale per il paese nordafricano? Nonostante tutto, sì, la svolta è cominciata, l'avete ricordato, con la cosiddetta primavera e adesso continua, naturalmente con grosse difficoltà. Le transizioni non sono mai facili, ricordiamo che la Tunisia veniva da una dittatura, anche se non la chiamavamo democrazia, durata 20 anni, giusto per fare un parallelo tanto quanto il fascismo. Non se ne esce facilmente, non si cambia strada troppo rapidamente, ma certamente la transizione è in corso, è partita. Ecco, in questa transizione quello che preoccupa molti analisti sono quelli che possiamo chiamare tra virgolette rigurgiti estremisti. Gli effetti sono sotto gli occhi di tutti, anche se, come dire, sulle cause scatenanti potremmo fare altri 10 trasmissioni, sull'opportunità anche di certe scelte editoriali dei colleghi francesi su quel, ripeto, sciagurato film. Il punto, diciamo, uno dei punti focali della Tunisia è che spesso discorsi incendiari da parte di alcuni imam e di alcuni leader religiosi si innestano su un tessuto sociale che è povero, che è frustato. Lo ricordava il professor Allevi, 20 anni di dittatura, un'economia che però arranca, ben lì il suo regime hanno nascosto parecchi soldi, non hanno certamente badato più come dire, alle tasche pubbliche che alle proprie. Tassi di disoccupazione altissimi, del 20% in media, ma in alcuni quartieri di Tunisi molto molto più alti. Allora io vi porto con me in questo piccolo caffè nel quartiere Etadame, nel quartiere popolare di Tunisi. Quello che lavorare alla scuola. E qua siamo in un piccolo caffè dove ho incontrato alcuni tunisini, fra cui Mohamed, 42 anni, parla italiano, ha lavorato per 3 anni in Italia, clandestino, ha lavorato in nero e sfoga in questo modo la sua rabbia. Ascoltate. Domani andrai davanti all'ambasciata francese? Tutti, tanti. Secondo te ci sarà violenza? No, senza niente, vai a camminare e chiudi il becco. Non hai paura che possa esserci dei gruppi di violenti che si uniscono a voi? Ma no, non hai paura, è normale, fai con la pistola o... Non mi frega un cazzo tutti il popolo, come dici, finita la vita. Rien a perdere, capito? Io ho morto il mio fratello, vai cammina quello. Non ho paura, perché paura? È finito tutto. Alla pancia non c'è niente, alla tasca non c'è niente, e al cervello non c'è niente. E vai, cammina. Questa è tutta la frustrazione di Mohamed. Quando poi gli ho chiesto che cosa pensasse delle caricature riguardo al profeta, sentite cosa ha detto. Mi non toccare il profeta. Quella cosa che tu e l'altro non è la tua regione, la mia regione. Io conosco il profeta, capito? Non parlare del profeta, non dici niente. Lasciare, non parli, perché profeto, andare a guerra mondiale, normale, c'è Dio. E infine ho chiesto se ci fosse un cambiamento, se fosse avvenuto un cambiamento tra prima e dopo il regime di Ben Ali. Qualcuno, una figura politica, un politico, un partito che vi dà fiducia, che secondo voi può cambiare la Tunisia? No, non c'è. Questa governa, ma sempre dire, Facciamo, dopo 3 mesi, dopo un anno, dopo 15 anni, ma non c'è niente. Ci sta i soldi, ci sta il lavoro. Prima. Non è come l'Italia. Chi sveglia prima per una legge, qui. No. 5, 10, op. Rubano. Tutto rubano. Anche i soldi che tu, che l'Italia andare, quanto noi vai all'Italia e vieni. Tu e fai i soldi pur noi. Sì o no? Prima il presidente Ben Ali mette la tasca. E questa la frustrazione nel quartiere popolare di Etadamen a Tunisi. Professor Allevi è con noi, Stefano Allevi, docente di sociologia a Padova e esperto di Islam, autore di numerose pubblicazioni. Professore, quanto questo disagio sociale, lo abbiamo sentito a questa voce di Mohamed, e condizioni economiche difficili, Mohamed è disoccupato peraltro, possono essere facile benzina per richiami alla violenza? Non c'è dubbio, però cerchiamo di contestualizzare. Allora, c'è un primo problema, una situazione economica disastratissima, un tasso di disoccupazione molto elevato, minimo 20%, ma in realtà molto di più la maggior parte del paese. E la famiglia Ben Ali se n'è andata via portandosi via l'equivalente del tesoro della Banca d'Italia, tanto per capirci, insomma, no? Nel senso che hanno lasciato il paese, per usare un'espressione gentile, in mutande. E a questo punto certo c'è il problema della radicalizzazione, e la radicalizzazione giova ai radicali, ve lo siete chiesto prima, no? A chi giova? Giova sempre ai radicali, evidentemente, che riescono a far sentire una voce che altrimenti è limitata, perché in percentuale contano poco o molto meno. Diciamolo chiaramente, la gente che è andata in piazza in queste 2 settimane nei paesi musulmani rappresenta qualcuno, li ha anche contati un po' e sommandoli, sono 0,0345% di 1,4 miliardi di musulmani. Ma noi li sentiamo precisamente perché fanno violenza e ci fanno paura, è la logica di tutti i terrorismi, compreso quello nostro interno degli anni 70, o quello palestinese, sì, o altri ancora. Allora, a questo punto, non dico che bisogna sorprendersi che di violenza non ce ne sia ancora di più, perché in realtà la Tunisia è un paese avanzato, democratico, sufficientemente laico, cioè per l'area, per la sua situazione storica, coloniale, eccetera, sì, non è comunque un paese primitivo, lo sappiamo bene, insomma. La transizione è cominciata, il problema è quanto l'aiutiamo anche però, perché sono state fatte delle elezioni democratiche, è stata veramente democratica, è stato eletto un partito prevedibilmente, maggioritariamente, anche se non ha la maggioranza assoluta, come è stato giustamente ricordato, è Nada sì, è fatto da un ceto di dirigente avanzato. Io ho incontrato più volte Rashid Ghannouchi, che è stato il fondatore di Ennahda, che sì, è vissuto in esilio a Londra. Beh, è una persona che l'Occidente lo conosce bene e che ha posizioni molto, molto avanzate anche in termini di laicità, di pluralismo religioso e così via. Certo, sono incalzati da un gruppo neosalafita, da alcuni, molti gruppi neosalafiti, piccoli ma significativi, che possono incidere solamente facendosi sentire molto di più. Una domandina che mi farei, se posso finire, è quanto si fa sentire l'Europa, perché, come dire, io faccio un parallelo storico importante. Sì. Quando c'è stata la transizione dei paesi dell'est, abbiamo capito che era importante, li abbiamo aiutati molto, abbiamo fatto l'allargamento dell'Unione Europea verso est in tempi abbastanza rapidi, eccetera, e non è ancora riuscita neanche lì, non è finita la transizione a maggior parte dei paesi, ma è andata meglio di quanto potevamo temere. Coi paesi arabi stiamo facendo altrettanto? La risposta è no, e non solo perché c'è la crisi. Puntata speciale dedicata alla Tunisia, in retroscena di quell'attacco all'ambasciata americana, la manifestazione davanti all'ambasciata francese. Dove sta andando il paese nordafricano? Questa è la domanda al cuore della puntata di quest'oggi. Siamo con Stefano Allevi, professore di sociologia a Padova, esperto di Islam, il quale invito a ascoltare insieme a me la voce di Nadia Gelassi, che ho incontrato a Tunisi all'Istituto di Belle Arti. È un'artista, su Facebook abbiamo già postato le foto di alcune sue opere, insegna appunto a Belle Arti a Tunisi, di recente è entrata nel mirino dei salafiti, di quella minoranza che giustamente, a cui faceva riferimento il professore, sono molto pochi ma fanno sentire la loro voce, in questo caso fanno anche paura. E fra l'altro la Gelassi è nel mirino della giustizia tunisina dopo una sua controversa esposizione di giugno, ma sentite che cosa dice sui rischi della democrazia in Tunisia. Il progetto del partito attualmente al potere sta cercando di far approvare due articoli di legge, anzi tre, che avranno delle ripercussioni definitive sulla storia della Tunisia. L'articolo più importante è la criminalizzazione dell'oltraggio al sacro. Il progetto attuale è di emanare un articolo della Costituzione che si sta scrivendo per criminalizzare l'oltraggio al sacro. Si capisce dunque che in una situazione come questa, un film, per quanto farsesco o stupido, può avere delle conseguenze negative, più per il partito al potere che per la gente che lotta per la libertà. Spero che non si arrivi a questo. Capite quindi che un contesto come questo, per ritornare a Charlie Hebdo, può provocare un effetto contrario, ed è per questo che parlo di globalizzazione. Capisco che gli artisti francesi reagiscano a quello che succede in Francia, in rapporto al movimento salafita, ma sono più sicuri, sanno che quello che fanno ha delle ripercussioni dirette, e la prova è che il governo francese ha chiuso le scuole francesi in Tunisia, che l'ambasciata francese verrà chiusa e non si sa cosa succederà domani. Invito ancora una volta gli artisti a riflettere sulle loro azioni, non da un punto di vista strettamente nazionale, ma a considerare le loro azioni come azioni mondiali, e che quello che succede può circolare rapidamente come immagine o come film, mentre i testi circolano più difficilmente rispetto alle immagini o ai film. Arrivo quindi al secondo punto importante. Ho appena parlato dell'articolo della Costituzione che considererà un crimine l'oltraggio al sacro. Ma c'è un secondo articolo attualmente in discussione e riguarda l'instaurazione di un Consiglio Islamico Superiore. Questo significa che tutti gli atti di legge dovranno obbligatoriamente essere vagliati da questo Consiglio. Ciò significa la fine della Repubblica Laica, perché tutti i testi dovranno essere di ispirazione religiosa e tutto ciò che non risponderà all'imperativo religioso verrà respinto. Questo per dire fino a che punto il momento attuale è importante e difficile. Il terzo articolo, che verrà discusso assieme agli altri, trattandosi di un progetto globale, è lo statuto della donna. In questo articolo la donna non sarà più uguale all'uomo, ma sarà complementare a lui. Trovo tutto questo molto bizzarro, dato che quando prende il via una Costituzione non c'è affatto bisogno di precisare i rapporti familiari, che non devono essere stabiliti dalla legge. Una Costituzione è per definizione qualcosa che emette dei principi generali. Il principio di uguaglianza è generale. La famiglia e il resto non sono problemi costituzionali, possono essere definiti dalla legge successivamente. Questa nozione della complementarietà non ha nessun motivo per trovarsi in una Costituzione. Questa legalità deve essere scritta in modo chiaro e netto. Il resto può essere regolato più avanti, tramite leggi specifiche. Questa è la voce di Nadia Gelassi, che appunto avete sentito mette in luce questi tre punti estremamente cruciali. Professor Allievi, è la fine della Repubblica Laica in Tunisia? No, non è la fine, ma è certo una fase delicata. Nadia Gelassi ha ricordato i punti più controversi, quindi è inutile tornarci sopra. Ci sono davvero delle discussioni in corso molto dure, ci sono dei gruppi islamici che tentano di forzare la mano, questo è fuori di dubbio, ed è proprio per questo che ci sarebbe bisogno di sostenere la parte laica ma non laicista, vorrei dire, la parte anche liberale, la parte della società tunisina che si è sempre occupata dei diritti dell'uomo al di là delle etichette religiose, politiche, eccetera, eccetera. Perché è una partita in corso ed è una partita dura, diciamo, rischia di essere un regolamento di conti. Non credo che Nada abbia questo interesse, ma proprio perché punzecchiata in maniera molto forte sul suo terreno in qualche modo dai gruppi neosalafiti, questo problema c'è. No, non è la fine ancora della Repubblica Laica di Tunisia. Ecco, fra l'altro ha citato prima Ghannouchi, che appunto lei ha incontrato 3 giorni fa, era nell'involvo di frenetiche consultazioni diplomatiche con François Gayour, che è l'ambasciatore francese, appunto, che si recava nell'ufficio del Nada per avere rassicurazioni che nulla accadesse ieri venerdì. Ghannouchi in un'intervista all'AFP avrebbe detto che i salafiti sono un pericolo per il paese. Adesso è appena arrivata notizia di pochissimo tempo fa, la smentita, mai detto che i salafiti sono un pericolo per il paese. Si ha la sensazione che nella politica di Ennahda spesso vi siano, come dire, un gioco delle tre carte o come delle due mani. Da un lato si tenta di corteggiare per attirare dentro il proprio alveo i gruppi più estremisti, dall'altra a volte si prendono le distanze in maniera non chiara, a volte no. È così ambigua la politica di Ennahda, Allievi? Non lo è, è più difficile da capire per noi perché, diciamo così, molti degli eletti di Ennahda, tra l'altro noi possiamo vantare in Italia un cittadino, non un cittadino italiano, ma un giovane che è stato presidente dei giovani musulmani italiani, che è stato eletto nella circoscrizione dei tunisini all'estero, e sono religiosi ma laici, diciamo così, e questo è meno facilmente percepibile o comprensibile per noi. Però c'è una partita sia al vertice sia contro i salafiti e con i salafiti. Non credo che sia ambiguità voluta, ci sono però gruppi che tirano da una parte e gruppi che tirano dall'altra, e fino a che non si vedrà la fine della Costituzione non sapremo chi ha vinto, adesso è difficile dirlo. Ecco, Nada interessa mediare, questo non c'è dubbio, che ci riesca questo rimane un punto interrogativo. Ecco, fra l'altro i lavori della Costituzione si dovrebbero chiudere il 23 ottobre, quando scade, diciamo, questo anno che è stato dato alla Costituente per lavorare, ma Nada su questo, in particolare Nureddin Arbawi, che ho incontrato l'altro ieri, che è uno dell'ufficio politico, dice non ci sarà un vuoto di potere e noi si andrà avanti finché c'è bisogno di lavorare. Già, insomma, questo gli sta tirando gli strali delle formazioni liberali. Sempre volevo farvi sentire la voce sempre di Nureddin Arbawi, perché l'ho solleticato su quello che è un problema piuttosto grave. Il problema che sorge è quando in alcune moschee vi sono degli imam che fanno discorsi troppo violenti, troppo incendiari. Maintenant, il y a un problème dans plusieurs moschées. C'è un problema in molte moschee, dove gli imam hanno preso la funzione di imam con un po' di forza, senza essere in una situazione di legalità. Quindi ci deve essere un intervento da parte del governo. Quando un imam non è nell'alveo della legalità, noi abbiamo un ministero degli affari religiosi che può intervenire. I nuovi imam hanno eliminato i vecchi imam e hanno preso il loro posto. Ci sono gruppi integralisti che non erano d'accordo con quegli imam e hanno così preso il loro posto nelle moschee. E questo sicuramente è uno dei problemi che Ennahda deve fronteggiare, deve gestire. Poi ho chiesto loro anche i rapporti con Ansar al-Sharia e mi è stato detto, beh, insomma, ma perché quando si parla di questi gruppi così estremisti ci si chiama in causa? La sicurezza è un problema nazionale, quindi come Ennahda anche gli altri due partiti della cosiddetta troica, fra cui Etta Katol, devono farsi carico. Professore Livi, ascolti con me l'altro punto fondamentale, questa data del 23 ottobre che sta passando forse un po' sotto traccia, e ho solleticato appunto sempre Arbawi su il problema della possibilità di un voto di potere. Questo è un falso problema. Chi parla della fine della legalità il 23 ottobre prossimo è fuori tema. Non c'è questione di legalità oggi. Chi ha fatto fiasco il 23 ottobre scorso sono loro che parlano della fine della legalità. C'è un governo legale, un'assemblea costituente che è legale, la più legale al mondo, non ci sono istituzioni più legali. E quindi chi parla di fine della legittimità è fuori strada. C'è solo un decreto, una legge minore, che dice l'assemblea lavorerà per un anno. Ma poi esiste questa assemblea che ha poteri costituenti e che ha quindi la possibilità di abolire tutte le leggi e i decreti che sono stati emessi prima, e quindi anche di prolungare i lavori. Non si tratta di un prolungamento per il puro piacere di allungare i lavori. È un prolungamento obbligato dallo stato delle cose. E la prima cosa da terminare è la Costituzione stessa. Poi vi sono le altre leggi. E una volta che avremo fatto tutto questo, i lavori saranno terminati. La Costituente non cerca di andare oltre. Professor Alievi, telegrafico su questo punto perché siamo in chiusura. C'è il rischio che Ennahda prolunghi a oltranza i lavori della Costituente per rimanere al potere? Io non la vedo in questi termini. Guardate che anche la Costituzione italiana ci ha messo molto più di un anno per essere formata. Bisogna mediare tra culture politiche diverse, per farla breve. E, certo, è possibile che ci sia un interesse di Ennahda, ma non credo che perderebbe le elezioni. Quindi ancora no. È ancora molto popolare. Grazie. Certo, no. Dopo il 24%, anzi, loro auspicano di andare alle elezioni presto, così mi hanno detto. Grazie al professor Alievi per essere stato con noi. Buona serata, buon lavoro. Io ringrazio anche Mirel Lucchetti, Luca Cremonese, Nadia Zammitti, Giorgio De Luca e Filippo Reggio la parte tecnica. Noi ci risentiamo sabato prossimo 19:15. Ricordate che nessun luogo è lontano.